anche Caparezza sarà con noi a Giovani Talenti. Sono Sergio Nava, vi aspetto sabato alle 13.30 per continuare a parlare di fuga dei cervelli dall'Italia. Noi invece restiamo su Radio 24, anche se dall'Italia se ne vanno davvero tutti. Cervelli in fuga!